Vodafone, servizio di segreteria telefonica. Lasciamo perdere, eh. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, saluto siete, però che palle. Cosa? Che palle, sono pieno di spam, Drago. Dove? Aspetta, sulla spalle. Ma no, lo so, sono pieno di spam ultimamente. Sì, adesso però la spam sai che è un po' meno di un tempo. Ti ricordi, 10 anni fa era un problema, adesso dai, meno male, ci sono i filtri, quelle cose lì. Poi a noi va bene in Italia, che la spam colpisce solo via email. In altri paesi arriva addirittura via SMS, dove non c'è la legge di Rodotà sulla privacy. I numeri di SMS vengono distribuiti così a man bassa. A tutte quelle agenzie di pubblicità che fanno qualunque roba, tipo pubblicità porno. In Pakistan, ad esempio, hanno vietato addirittura le parole oscene negli SMS, anche tra privati cittadini, per evitare appunto la spam porno. Che ma come fanno a saperlo? Cioè, spiano gli SMS dei cittadini. Certo, scusa. Per forza, certo. In Pakistan, scusa, c'è anche una lista di parole che attivano la censura, e poi se insisti in un parossismo di Sharia, ti tagliano il pollice, così non puoi più fare. Peccato che da noi non ci sia più il governo di prima. Perché? Perché è una legge che sarebbe piaciuta tantissimo al bambino Giovanardi. Ma chi? Il cantante dei La Cruz? Ma che cantante? Quello che canta un po' come il mago Silvia. Eccolo. Tipo Sin, sin, sana, ben. Ecco, sì. Basta, Giovanardi, Drago, il politico, quello antidroga, antisesso. Ma sì, ho capito, però la legge sarebbe piaciuta magari a lui, ma non a tanti suoi alleati, tipo Bocchino. Lui con gli SMS mandati alla Began, in Pakistan sarebbe finito col pollice mozzato e forse anche sbeffeggiato. La lista delle parole qual è? Tutte quelle oscene, le solite, no? Vabbè, ma in lingua pakistana? Ne so, in lingua pakistana, in italiano sono le solite. Poi in Pakistan sono anche vietate le parole allusive, tipo taxi. Capito? Perché taxi? Se tu dici taxi è un casino, perché taxi vuol dire prostituta in Pakistan. Ah, vabbè. E poi è vietato scrivere, non so, la parola lingua. Lingua guai. Vietato anche buco. È vietato anche cetriolo, zucchino, banane e prugna. E se devi fare un minestrone, non lo dici via SMS. Vabbè, perché tu fai il minestrone con banane, prugne e compagnie belle. Soprattutto non lo faccio via SMS. Minestrone via SMS. Anzi, non ho mai fatto un minestrone in vita mia. E allora vedi. Vabbè, ma cosa? Tu in Pakistan non correresti alcun rischio di finire nel mirino della censura. Ma perché? Perché non parleresti di zucchine, cetrioli e minestroni nei tuoi SMS. Quindi sei a posto. Zucchine e cetrioli direi di no. Non si sa mai, però. Scusa, se spiano tutti gli SMS, qualcosa che non va, prima o poi te lo trovano. Vabbè, lo so. Frasi innocenti, fraintese, che diventano capi d'accusa e ti tagliano il pollice. Certo. Magari ho bisogno di un taxi. Vabbè, ma quello sai, il rischio di ogni stato di polizia. Però c'erano anche dei tipi qui in Italia recentemente che strillavano come dementi: intercettateci tutti. Sì. Che mi sembra una delle massime cretinate sentite negli ultimi mesi. Era il parossismo del momento in cui tutti volevano essere intercettati. Tutti, ma poi non scandalizzatevi se usiamo termini come banana, cetriolo, paracarro. Ma come paracarro? Paracarro anche, no? Sei sempre esagerato però tu. Forza, anche tu. Libera il paracarro che è dentro di te. Icarona. Fiero e impassibile. Segni il limite. Col sole, con la grandine, sempre lì. Paracarro, paracarro, cosa aspetti? Paracarro, molla tutto, corri via di lì. Paracarro, paracarro. sempre a proposito di spam, capo, recentemente mi arrivano delle mail che come mittente hanno conferma spedizione, cioè conferma di nome, spedizione di cognome, e come oggetto attendiamo la tua conferma. Questo è molto interessante, questo che mi stai però dicendo. Stai a sentire, se vai nel messaggio, io sono stato incuriosito e ho visto che la mail arrivava da Altro Consumo, che è la rivista dei consumatori. Quindi a prima vista sembra che Altro Consumo, la rivista dei consumatori, ti inviti con l'inganno ad abbonarti e consegnare dati sensibili tipo il tuo numero di carta di credito, perché si vede che è un po' farlocco, Altro Consumo, però attendo la tua conferma di cosa? Tu non ti sei mai voluto abbonare? Vabbè, ma li allora danno per scontato. Tu cosa hai fatto? Ti sei iscritto? No, la genialata, però ho capito che questi truffatori non sono quelli di Altro Consumo, è gente qualunque, così, dei truffatori che colpiscono proprio uno dei loro nemici, capito? Magari non riescono a fregare nessuno, nessuno si abbona, però in quel modo gettano discredito su Altro Consumo, che sono proprio i nemici di questi truffatori. Secondo me anche tu, parlandone qui alla radio, così uno distrattamente nel traffico ha sentito Altro Consumo spam, pensa che Altro Consumo sia spam e che voglia fregarti. No, invece no, cosa vogliamo dire allora? Che Altro Consumo è una bella rivista? Ma non lo so, non serie. È che vogliamo dire niente, no, sei tu che lo dici. No, però è bello che i truffatori facciano questa truffa ai danni dei loro nemici. No, interessante. Ma è quasi sei tu che ci caschi, ma che situazione? Io comunque ho mandato i dati. Tu stai troppo tempo davanti al computer, sai che si dice? Sì. Solo la cosa strana è che quando uno sta troppo davanti al computer diventa cieco, tu invece sei diventato sordo, non riesco a capire. E ora, bambini, ricreazione! Beh, allora, c'è qualche rumor? Eh? No, niente, niente. Rumors, il disco famoso dei Fleetwood Mac. Mariano Rumora, ministro dell'interno. Ma cosa, Fitume? Fleetwood Mac. Vabbè, dai, lascia perdere. Ah, no, rumor nel senso che c'era qualche voce attendibile sul mio ruolo nella recita di Natale, no? Ah, il tuo ruolo nella recita, no. No, ancora non si sa bene. Ma dai, quando è che si sa? All'ultimo. Comunque, secondo me, e te l'ho già detto, tu farai la stella di Natale in cima all'albero. Ma no, ma è alto, io ho paura. Ma no, ma ti imbragano bene in sicurezza con l'elmetto. Scherzi, l'asilo. Ho capito, poi, però siamo le solite. La pipì dove la faccio? E la popò? Ma durante la recita, semmai la fai come la fanno gli astronauti. E cioè? Niente, lascia perdere. Meglio non sapere. Alberto, allora, ricorda a tutti quanti come si fa a prenotare un posto sicuro alla nostra e non tua recita di Natale. Allora, se volete venire invitati alla recita di Natale del bambino Alberto, bisogna mandare una mail a chiedosilo@radio24.it. Scusa, bambino Alberto, però il fatto che tu dica la recita di Natale del bambino Alberto e poi l'indirizzo non sia bambino Alberto, eccetera, ma chiedosilo@radio24.it mi fa venire il sospetto che sia la recita di Chiedo Asilo. Ma scusa! E non del bambino Alberto. Tu da questo lo deduci. Va che almeno quello, vedi che lo vado subito a prendere. Dai, bambino Alberto, su, chiudiamo sta cosa. Vabbè, questo è il mio indirizzo, no? Se uno vuole parlare con me, parla Chiedo Asilo. Va bene, comunque hanno capito, dai. Allora. Adesso torna in aula con i tuoi compagni, tanto l'ha già detto Drago, basta sta roba, cos'è? Infatti, spazio pubblicitario. Ma l'abbiamo detto che nell'oggetto della mail bisogna mettere recita di Natale. Sì, va bene. Recita di Natale. Recita di Natale. Di? Recita di Natale. Recita tre parole. Meglio ancora, sarebbe perfetto. Sì. Se lasciassero il numero di cellulare. Ha detto tutto. Ha finito, dai, basta. Ciao. Grazie, bambino Alberto. Finito tutto, sì. Sì. E ultimamente mi trascurate. Ma no, è che abbiamo tante altre cose da fare, da dire. Chiedo asilo dura poco. Tu metti sempre una vita a dire tutto. No, perché voi ormai mi usate solo per promuovere la recita. Vabbè, è un po' così. No, tutto il resto non mi interessa, i miei problemi. Ma che problemi? Quello che vi racconto. Vabbè, allora io mi consolo con una pizza. La pizza dell'app, no? Vi ricordate? Sì, la pizza della purtroppo hai fatto già due palle così con sta app delle pizze o la pizza dell'app, non ho ancora capito com'è la questione. Cambia piatto, no? Devi sempre fare la pizza, non puoi fare i finocchi cotti virtuali. Ma scusate, ma no, poi anche se ci fossero non li cucinerei mai. Ah no, Mi fanno schifo solo le fotografie. Ma fotografia, ma c'è mica la fotografia su quell'app? C'è un'immagine, c'è un'image del touchpad. E tu dici, digiti, vai sul touchpad su finocchi cotti. E lui cuoce. E poi tu mangi. A piacere, no? E poi ci si fila nei denti i filetti di finocchio. Sono cattivissimi. Così dopo 6 ore che hai mangiati, dici ormai è andata. E no, torna sul sapore perché c'è tutti i fili nei denti. Quindi non è che mangi e fa schifo butti giù. E no, che poi dura, è un sapore che persistente, no? Come i grandi vini. Persiste il finocchio cotto. E poi anche se ti lavi i denti, e no, peggiora, perché rimane il fondo di finocchio cotto e sopra quella la mentuccia. Perché io uso un dentifricio degli anni 60, quei sapori lì, nature, rosa, però che sa di mentuccia, che sopra i finocchi cotti diventa una cosa un po', e allora poi dopo, per volte vomito. Comunque io per non saper né leggere né scrivere, ho mandato i dati della mia carta di credito a questi di alto consumo perché mi interessava. Ancora questa spam, Drago, basta, già mi rompe le palle nel computer, mi devi rompere le palle anche tu con la spam. Adesso ho il dubbio di aver mandato i soldi, hai capito? Ma i dati ai truffatori. Ma soldi non ne hai, stai tranquillo. Anche quello è vero. La spam sei tu, Drago, che rispondi a queste cose. Sì, la spam sei tu, chi può darti di più.